Europa 24. Buon pomeriggio da Laura Bettini. Sanzioni alla Russia per la crisi ucraina. Le proposte della Commissione, che come deciso dai ministri degli esteri martedì imporrebbero limiti all'accesso di Mosca ai mercati dei capitali e della difesa europei, sono ora all'esame degli ambasciatori dei 28 presso l'Unione Europea. Sentiamo. Dopo la decisione dei ministri degli esteri europei martedì di aumentare le pressioni sulla Russia, ritenuta responsabile dell'abbattimento dell'aereo malese nei cieli ucraini, la Commissione europea ha presentato nelle scorse ore una lista di opzioni sul fronte sanzionatorio. Tra queste, secondo alcuni diplomatici, anche il divieto per le banche europee di acquistare debito privato russo. Le opzioni sono attualmente discusse dai rappresentanti dei governi qui a Bruxelles. Si prevede un negoziato difficile perché ogni misura ha un impatto inevitabile anche sul paese che decide la sanzione e non solo su quello che la subisce. Tre i settori che dovrebbero essere presi di mira: l'energia, la finanza e la difesa. Secondo alcuni diplomatici, la trafila politica e giuridica dovrebbe essere completata entro la fine della settimana prossima. L'Italia guarda con attenzione a queste trattative, tenuto conto dei forti legami commerciali con la Russia. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Della crisi ucraina e delle sue implicazioni politiche, economiche e strategiche intanto fa le spese anche la Bulgaria, il cui premier Oresharski si è dimesso ieri. Era capo di un esecutivo di minoranza eletto dopo il voto anticipato del maggio 2013. Dopo la corsa agli sportelli bancari di due delle maggiori banche bulgare, crisi non causata da problemi del sistema bancario ma dalla guerra fra due oligarchi, il governo di Sofia è corso ai ripari iniettando liquidità per 1,7 miliardi di euro. Ma l'esborso straordinario per salvare le due banche, la Corporate Commercial Bank e la First Investment Bank, farà aumentare deficit e debito e soprattutto ha fatto saltare il fragile equilibrio della variegata coalizione guidata dal premier bulgaro Plamen Oresharski, che ha annunciato le dimissioni in vista delle elezioni politiche anticipate previste per il 5 ottobre prossimo. La crisi bancaria e i suoi costi nel paese più povero della UE hanno dato il colpo finale all'esecutivo, che aveva l'appoggio del Partito Socialista, in coalizione con il partito della minoranza turca e del partito degli ultranazionalisti di Ataca. Ora il paese balcanico va al voto anticipato in una situazione di estrema incertezza e con forti pressioni russe perché accetti il passaggio, osteggiato da Bruxelles, del gasdotto South Stream nel proprio territorio per evitare l'Ucraina. La Bulgaria è un altro paese vittima delle rinnovate tensioni geopolitiche tra Mosca e Bruxelles e da lotte intestine tra oligarchi. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione ha raggiunto un'intesa sugli obiettivi di efficienza energetica da proporre al Consiglio europeo, che a fine ottobre dovrà prendere le decisioni finali sulle politiche dell'Unione per il clima e l'energia al 2030. Accanto al meno 40% di CO2 e al più 27% per le rinnovabili, indicati all'inizio dell'anno, ci sarà un target del 30% in più di efficienza energetica. L'obiettivo, ha detto il commissario all'energia Oettinger, è ambizioso ma al contempo realistico, poiché si basa sui risultati già ottenuti con le legislazioni al 2020. L'esecutivo comunitario stima infatti, come vi avevamo anticipato anche ieri, che alla fine del decennio si arriverà a un risparmio energetico del 18-19%, ma che il target del 20% al 2020 sarà raggiunto e forse superato se tutti gli Stati membri applicheranno le disposizioni esistenti. Secondo Oettinger, la proposta del 30% al 2030 è la base per guidare l'Unione Europea verso la sicurezza degli approvvigionamenti, l'innovazione e la sostenibilità e fornirà il corretto segnale al mercato, incoraggiando ulteriori investimenti nelle tecnologie per l'efficienza a beneficio dell'industria, dei consumatori e dell'ambiente. Un'occasione sprecata, commenta invece in Italia Legambiente. Il target del 40% di tagli ai consumi sollecitato a febbraio dal Parlamento europeo era raggiungibile e avrebbe significato un taglio alle importazioni di gas del 40% e un aumento della occupazione del 3,1%. Ci fermiamo qui, Europa 24 vi dà appuntamento a domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.